che lui rimuova quel velo che ti rende cieca ormai. Tra abitudini e ipocrisie, tra egoismi ed apatie asfissianti. Oh mio Dio, ti prego, ricorda il tuo servo inutile. Prendi tra le tue braccia quest'essere vulnerabile. Io vorrei la tua calma nella mia bufera, la tua grazia che coprire può tutti gli errori che ho commesso e che domani commetterò. Perché vivere senza te è impossibile, tutto appare triste e inutile. Conquistato.